Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Oh, come vedo allegro, caro. Come ti vedo allegro, caro Oscar. Cari perché? Ascoltatori, perché? Due segnalazioni. Sì. Comunicazione Service. Prima, io vi devo informare che la presenza di Alessandro Milan in studio è possibile solo grazie ad alcuni cavi di trazione che lo ancorano, perché altrimenti come una mongolfiera dirigibile uscirebbe fuori dal palazzo. Arriveremo settimi, la seconda comunicazione è che tutto ciò è molto giusto dal mio particolare punto di vista, perché Oscar, che tira il Torino, è più contento di me. È molto vedere Agnelli che applaude l'arbitro ironicamente. Oscar è più contento di me, ma lì c'è una storica Carel, come sai. Debba prevalere in quelle reazioni di fronte a una decisione arbitrale, insomma, discutibile, forse ingiusta, se debba prevalere negli juventini il senso dell'impunità tradita, dice, ma come ci trattate così a noi? Noi siamo sopra la legge. Oppure semplicemente l'incredulità, cioè, ci trattano come persone qualunque. Come dice Lorenzo Nespoli, andava annullato per bruttezza quel gol. Sì, no, quindi ma presa maestà. Va bene, capisci? Così. L'esa maestà. Il gol così non si fanno, poi a Buffon tantomeno. Abolito. Cancellato. Abolito. Dunque, no, vabbè, adesso, cari amici Ventini, un abbraccio, capita a tutti ogni tanto, è giusto che capiti anche a voi. In questo 24 ottobre c'è un santo che mi piace molto oggi, che è San Luigi Guanella, perché è uno dei santi dei poveri, come Don Bosco, di cui tra l'altro conobbe le opere, Cottolengo e così via. Aveva un difetto, era un lombardo del nord, nato in una valle in provincia di Sondrio, che era una valle chiusa da monti da una parte all'altra, quindi un mondo chiuso, un mondo più straniero che italiano, più vicino ai grigioni, eccetera eccetera, era nella Lombardia austro-veneta, e quindi si dedicò ai poveri, fondò questo straordinario ordine che è diffuso in tutto il mondo, dei servi della carità. Aveva solo un difetto, era proprio terrificantemente antiliberale, però le sue opere sociali per i poveri e per i disabili, per i psichi, eccetera eccetera, lo rendono uno dei santi che mi è caro. Devo dirti che oggi è una giornata da ricordare per molte cose. Primo, per l'esplosione del Vesuvio, che è avvenuta 79 dopo Cristo, oggi e non ad agosto. E poi perché oggi nel 1929 è il famoso, all'epoca non era lunedì ma era un giovedì, il famoso giovedì nero che fa esplodere la crisi del 29. Quindi per chi si occupa di economia e finanza è un giorno abbastanza importante. E l'invasione dell'Ungheria nel 56, e l'invasione e l'anniversario della presa del palazzo d'inverno nel 17, la rivoluzione russa, pensa un po'. E tra i compleanni, e tra i compleanni del giorno, per noi giornalisti sono un compleanno di due pesi massimi, perché da una parte c'è Ezio Mauro, e va bene, ma dall'altra, lasciamelo dire, uno dei più grandi giornalisti inchiesta economico-finanziaria italiana, cioè Claudio Gatti, l'inviato speciale del Sole 24 Ore, quello che ha tirato fuori grandi colpi. Anche l'ultimo Elena Ferrante. Quello di Elena Ferrante, ma aveva tirato fuori nel 2005 il For Food, è stato lui, ha tirato lui lo scandalo, il coinvolgimento di JP Morgan nel caso Madoff, 50 miliardi, quello Finmeccanica. Insomma, giù il cappello, è uno di quei giornalisti che fanno onore al fatto che i giornalisti economici possono essere d'inchiesta e puntare il dito contro i potenti. Allora, qui Oscar parleremo di alcuni temi, oggi torneremo a parlare anche un po' del referendum, ci concentreremo sui costi, capire se il referendum abbatte i costi, torneremo a parlare sulla questione delle obiezioni di coscienza per gli aborti. Per gli aborti, per la legge 194. Però io so che tu hai... Ecco, vedete, ha già il canino pronto. No? Il canino. Ha letto questa intervista Gattino. Al vice ministro Casero, che ha proposto di fare la lotteria per gli scontrini. Cioè, cari italiani, ritirate gli scontrini, perché forse dal 2017 metteremo una lotteria, come succede in vari paesi, in Portogallo. Come lo succedono, fanno, come succede in alcuni paesi. Nell'est, a Singapore, se non sbaglio. Tutte idee quando gli scontrini erano davvero. Non solo in quei paesi, ma anche in Italia, dei documenti che attestavano la fedeltà fiscale, cioè in base ai quali c'erano gli accertamenti, cosa che in Italia non è più da anni, perché gli scontrini sono un mero attestato di contabilità, non sono ciò su cui si fanno gli accertamenti di imponibile e di imposta. Per essere chiari, anche se molti italiani lo dimenticano. Certo, è un obbligo di legge che va rispettato, esatto. Però a dirti la verità, io conosco Luigi Casero quando eravamo ragazzi, perché eravamo insieme alla Federazione Generale Repubblicana, quindi lo conosco bene. Caro Luigi, io capisco che sei fatto concavo, convesso, sei rimasto al MEF con governi di tutti i tipi, perché la storia di Luigi Casero è questa, va benissimo e io sono molto contento per te, ma lasciati dire che mentre la prima parte della tua idea, quella della rifa sui scontrini, discutibile, ma la seconda, perché caro Alessandro, vogliono estrarre a sorte anno per anno un settore di spese che non è previsto nelle detrazioni per legge. Cioè, per dire, quest'anno estraiamo gli idraulici, potranno detrarre questa spesa. Terzo anno le prostitute. Non è una categoria di lavoro nel senso codificata. È molto discutibile questo, ma comunque potrebbe essere. Potrebbe doverlo essere. Detraggono le spese per le prostitute. Allora, questa idea invece, lasci dire, caro Luigi, che è una stupidaggine assoluta, perché dà l'idea di un fisco da ebri. Ma ti pare che noi abbiamo per legge i settori su cui si può detrarre le spese mediche, una certa percentuale, eccetera, eccetera, no? Allora, che facciamo invece? Ci mettiamo quest'anno aggiungiamo la ruota di Napoli, esce. Ma guarda, che prima avevo Carlo Rienzi, presidente del Cola, con sale 6:30, e pensa che lui mi ha detto: questa è una nostra proposta di qualche anno fa. Cioè, chi vuoi tu? Resta l'idea di un fisco per ebri, borbonico, capisci? Ci inventiamo ogni anno, quest'anno inventiamo questo. Se ci vota, l'anno prossimo ve ne inventiamo due e fate presto. Ma che cacchio, ma dai, ma ti rendi conto? In Cina per esempio c'è lo scontrino gratta e vinci, no? Quello gratta e vinci, proprio nel momento. Stiamo parlando anche in quel caso di uno strumento di riffa che però serve ad aumentare la fedeltà fiscale. L'estrazione a sorte, questo almeno può di essere un settore di spese che non è previsto dalla legge, dà l'idea di un paese di ubriachi governato però da almeno ubriachi. Quello degli scontrini potrebbe essere un modo per incentivare. Ovviamente, tra l'altro, Casero ha detto il premio nel caso della lotteria degli scontrini dovrebbe essere anche un premio di rilievo, che ne so, in Cina magari danno un'auto di lusso, non è mica un premietto così, cioè, perché bisogna incentivare la. Sì, naturalmente alla domanda, bene, tutto questo che naturalmente costerà agli esercenti, la risposta è dire: beh, ma il premio lo facciamo dare a uno dei loro prodotti, è una risposta non claudicante, ma c'è anche un altro tipo di obiezione, cioè ci sono delle persone che entreranno a prendere scontrini anche per importi minori, ma sarà legato all'importo, non tanto. Queste cose servono, non verranno fatte. Ma no, servono a distrarci dalle due cose di fondo. La prima cosa di fondo è il ceffone ben dato dal Quirinale al governo, perché dopo una settimana di ritardo, quando ha visto il testo del decreto legge fiscale, ricordo a tutti che quando nel 94 Berlusconi ritardò, l'ha ricordato Marcello Sorgi sulla stampa, ritardò di 24 ore la questione della finanziaria, Scalfaro al Quirinale lo fulminò e pretese la notte stessa al testo, altri tempi si direbbe. Oggi però il Quirinale ha aspettato una settimana, ma poi ha dato un ceffone, perché 6 miliardi di coperture ballerine, dovevano essere 4 miliardi dalla rottamazione della cartella, 2 miliardi di volontari, sono ridotti a meno di 2 miliardi, e il Quirinale ha fatto benissimo. Allora, per far dimenticare questo, per far dimenticare l'aliquota del contante che è sparita, perché il Quirinale gli ha detto: ma che cacchio state facendo, che da una parte l'aliquota è discutibile ma dall'altra è un regalo a tanti se fossero illeciti, allora di fronte a questo si inventano le riffe, capisci? Politica di comunicazione. Va bene, allora caro Oscar, se volete chiamarci su questo tema 800 24 00 24, noi però adesso dobbiamo salutare un ospite, perché vogliamo riannodare un po' i fili con quel discorso che abbiamo fatto venerdì, ti ricordi? Siamo partiti dalla vicenda tragica della morte di una donna che doveva partorire a Catania. Il tema che abbiamo sollevato noi non è tanto che cosa sia successo, ci sarà un processo, ci saranno degli accertamenti, se ne occuperanno i magistrati, ma ci chiedevamo: è normale che in un paese in cui c'è la legge 194, il diritto all'aborto, ci sia un ospedale a Catania dove tutti i medici sono obiettori? Questa per ammissione stessa del direttore generale. Dell'ospedale abbiamo Catania. Anche aggiunto, questo per essere sinceri con i nostri ascoltatori, che il problema non è tanto un ospedale a Catania, il problema è che con pancellati diversi tra i medici di ostetricia e ginecologia e gli anestesisti, però ci sono parti crescenti d'Italia, compreso il nord, questa Lombardia, medici sono più di due terzi obiettori. Sono obiettori anche qua, quindi questo significa che l'applicazione, la garanzia dell'attuazione del diritto quando ci sono percentuali di questo tipo praticamente è impossibile. Però abbiamo chiamato una persona che immagino sarà contenta del fatto che ci siano tanti obiettori. È il professor Filippo Boscia, che è presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Buongiorno e benvenuto, grazie per essere Buongiorno qui. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Lei presiede anche la Società Italiana per la Bioetica e i Comitati Etici. Senta Boscia, per noi in uno Stato in cui c'è la legge 194 e quindi un diritto garantito alle donne di poter interrompere la gravidanza nei casi previsti dalla legge, appare un po' incredibile che poi non si possa portare a termine questa interruzione di gravidanza perché sono tutti obiettori. C'è il diritto all'obiezione, c'è, va rispettato, ma nelle piante organiche degli ospedali ci deve essere la maniera per contemperare sia il diritto agli obiettori ma un certo numero di non obiettori in ogni ospedale, perché abbiamo sentito dire basta ricorrere all'esterno. No, non vedo perché se ricorre all'esterno, primo costa, secondo sono due diritti, ci sono l'ordinamento, noi rispettiamo la legge ma vanno contemperati. Dai, che dice? Ma senta, innanzitutto questo è un problema che non riguarda direttamente gli obiettori, ma riguarda l'organizzazione di un servizio. E nell'ambito dell'organizzazione del servizio, poiché le agenzie nazionali e le ASL locali hanno una mappa di tutti coloro i quali hanno presentato delle obiezioni di coscienza, loro hanno la possibilità all'interno di questa mappa di stabilire dei turni di servizio che devono essere certamente presenti. È chiaro che il discorso dell'assistenza sanitaria deve essere assolutamente garantita, perché accanto all'obiezione di coscienza esiste l'obbligatorietà di coscienza, soprattutto quando ci sono degli eventi che riguardano rischi a doppia valenza. Nel caso di Catania è uno di questi, e nel caso di Catania l'obiezione di coscienza non doveva e non poteva essere sollevata da chi che sia. Sì. L'obiezione è un evento, un istituto che è un diritto assoluto costituzionalmente tutelato, a doppia valenza, tutelato anche dal diritto europeo. Per motivi religiosi, ideologici, morali, chi rifiuta di svolgere un servizio, di praticare degli aborti, un progetto di cura o una terapia a rischio, terapie sperimentali o interventi chirurgici mutilanti o trasformanti, credo che abbia il diritto, così se non condivide questo tipo di approccio, di mantenere la sua... Sì, però in caso di un ospedale in cui tutti sono obiettori, cioè lì qual è il problema secondo lei? Il problema dell'ospedale? Noi abbiamo un'organizzazione sanitaria che è su base nazionale, e su base nazionale queste situazioni possono essere tutelate. Noi non abbiamo più una sanità parcellizzata, abbiamo una realtà nazionale che deve garantire ai cittadini italiani il massimo dell'assistenza. A questo punto la mappa obiettori non obiettori deve essere in sostanza nella responsabilità di chi è all'Organizzazione Generale dei Servizi, e quando ci si è resi conto di questo c'è la possibilità di fare anche dei trasferimenti da ASL ad ASL, da ospedale ad ospedale. Quindi glielo chiediamo per la terza volta, capisco per l'incarico che lei ricopre, però allora ci dica, preferisco non rispondere. Un ospedale, uno o più, sono moltissimi gli ospedali in cui non c'è un medico non obiettore, secondo lei garantiscono il contemperamento dei due diritti, quello al rispetto alla legge 194 e il rispetto sacrosanto, ce l'ha ricordato, all'obiezione di coscienza? Se non c'è un numero adeguato, anzi zero, di non obiettori, secondo lei quell'ospedale li contempera i diritti o no? Sì o no? No, certamente non si contempla il diritto, ma la responsabilità, io vorrei che... Ma no, è chiara, è nazionale, benissimo. Forse chiara, è in capo a chi è demandato all'organizzazione dei servizi. Certo. Questo è evidente, non dipende certo dai singoli medici. Bisognerebbe operare da parte di chi organizza un ospedale dei trasferimenti, ecco, una chiamiamolo così. Anche dei trasferimenti. Trasferimenti, cioè fare in modo che... Se per caso non ci fossero persone disponibili, c'è stata anche gente che è disponibile a dei contratti particolari. Questi possono essere organizzati. In passato questo evento non c'è stato assolutamente mai. se si vuole razionalizzare il servizio tagliando a destra e a sinistra senza avere la minima preoccupazione di come i servizi devono andare, ma avendo una invece preoccupazione che è prevalentemente economico-gestionale, non si va da nessuna parte. Il problema è che l'economia in questo momento ha ingoiato tutto, ha ingoiato l'etica e ha ingoiato anche il criterio generale di organizzazione dei servizi ospedalieri. Va bene, diciamo che almeno una chiarezza, ed è importante che da parte sua ci sia un punto a dire, non è possibile avere un ospedale con tutti gli obiettori. No, guardi, noi abbiamo delle leggi nazionali che vanno rispettate, noi siamo cittadini inseriti nel contesto nazionale e come cittadini abbiamo, diciamo, l'obbligo di rispondere, ovviamente con tutte le salvaguardie, perché chi obietta non propone argomenti personali che si prefiggono di contraddire tutto in parte dei progetti di altri, ma frappone un rifiuto che è motivato da situazioni importanti. Vedersi il problema dei testimoni di Geova, anche quello è un problema che va sanato. Altro che. Ma comunque qui noi non stiamo parlando, sviscerando la fondatezza, la liceità, la legittimità oppure la condivisibilità di chi oppone l'obiezione di coscienza, per ragioni, che sono quelle che lei ha richiamato. Noi stiamo semplicemente mettendoci dal punto di vista delle famiglie italiane, delle donne, eccetera, eccetera. Voglio dire, nel fine settimana abbiamo assistito a un'azienda sanitaria in Puglia che, di fronte a un intervento previsto nei casi specifici della legge 194, dice alle donne che l'hanno sostenuto: beh, riflettici, perché deve essere la prima e l'ultima volta. Che non è assolutamente una comunicazione che può fare l'azienda sanitaria a chi si è sottoposto a un intervento di quel tipo, perché forse non hanno la minima idea del trauma per una donna psicologico di dover assumere una decisione di quel tipo. Però detto questo, noi non stiamo difendendo o meno la stiamo licenza. Difendendo il diritto, ecco, insomma, la legge. Comunque, la risposta è chiarissima ed è molto apprezzabile di Filippo Bosch. Cara Lorenzini, il problema è tuo. Professor Boscia, noi la ringraziamo, ovviamente, ricordo, non ho anche detto, ma è anche ginecologo, tra l'altro, professor Boscia, quindi insomma l'argomento lo padroneggia, oltre a essere presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Grazie per essere stato con noi. Allora, noi dopo la pubblicità ci concentreremo sul referendum, i costi. Oggi avremo il perché sì con il professor Fusaro, perché questa riforma abbatte i costi, questa sarà la dicendo tesi. Perché sì a Donnarumma e Locatelli, però... questa è la tesi del professor Fusaro. E poi chiamateci allora se volete fare le riffe di Stato, non lo so. Le riffe di Stato sugli scontrini. Tra poco. Sono le 8:40 minuti, caro Oscar. Ma tu attento ad andare all'estero, perché l'apertura, non ti è sfuggito l'apertura del Messaggero, fisco, indagini su chi espatria. Sì. Ogni comune deve dare la lista come ai tempi della BNA. All'epoca. Beh, in Gran Bretagna vogliono mettere la lista di chi fruisce del porno online. E infatti, quindi... vedi, sono tutti segni dell'impazzimento. Del resto, un paese in teoria lo fanno per tutelare i minorenni. Sì, ma anche vogliamo qua, controllare teoria... se sei maggiorenne. Teoria, qui lo fanno per trarre gli incassi, però sono tutti segni da anni 30. Del resto, perdonami, un paese che per difendere uno 0,1 di deficit in più dice alla Commissione Europea: scegli o noi o l'Ungheria, quindi si butta a nuotare nei mari dei nazionalismi contrapposti, delle due l'una, sì, o poi... non è lo 0,1 il deficit in più, ma è molto di più, oppure, perdonami, è una specie di cosa solo elettorale, il che in entrambi i casi fa molto riflettere. Guarda, a me appassiona questo braccio di ferro, ho detto, come una partita di cricket del Bangladesh, cioè non sono un grandissimo tifoso di cricket. No, ma i toni dicono tutto. Sì. Ci chiama Aldo da Genova. Buongiorno Aldo. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Tutto. Niente, io intervenivo per quanto riguarda Catania, ma non prettamente su Catania. Avendo sentito molti servizi, ascoltando la radio durante i miei trasferimenti, normalmente in certe occasioni è il ministro che si espone, che dà la sua decisione, per esempio la sua opinione. In questo caso si è sempre parlato di ministero o di altre cose, stanno molto vaghi. Ma la Lorenzini l'abbiamo ibernata in qualche posto, l'abbiamo esiliata o altra cosa? Dopo il Fertility Day è completamente sparito dalla circolazione. Diciamo che il tema sia rimasto un po' scottata. Comunque, Aldo, grazie. Stefano, ce la facciamo dalla provincia di Roma. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, No, questo è un problema ovviamente culturale e sono contentissimo che oggi se ne parli, perché io ho fatto questo lavoro, ho fatto l'anestesista per 35 anni e ho vissuto questo problema. Purtroppo, come dicevo, è un problema culturale, cioè fino a che noi avremo l'influenza del Vaticano in Italia esisterà questo problema. E poi diciamo anche questo, che io so, potrei dire nomi e cognomi di medici obiettori che poi nei loro studi fanno l'interruzione di gravidanza facendola passare. E io la ringrazio di questa testimonianza, perché è molto diffusa, è molto diffusa, cioè, come mi lasci aggiungere, ci sono parti d'Italia, e la Lombardia è stata così per dei anni, in cui per avere nomine alla testa di aziende, ospedali eccetera, devi appartenere a un certo credo, sì, obiettore. E così, allora, queste cose, e la ringrazio davvero, perché se la dice un giornalista da fuori, la gente dice sei polemico e di parte. Ecco. Però voglio dire, c'è il Vaticano, però ci sono anche le leggi dello Stato. Si rispetti l'obiezione, si rispetti i diritti alla 194. Questo sarebbe. Questo, e invece non è così. Comunque, Stefano, grazie da questa testimonianza. Eccoci con il professor Carlo Fusaro. Buongiorno, professore, come sta? Buongiorno Milan, bene? Tutto bene? Ma lei è uventino, professore? No. Per carità. Sembra concordata questa. No, perché abbiamo qua un torinista e un milanista. Non lo è. Rispetto tutti, ma sono viola. È viola, proprio, sì, quindi il peggio del peggio, avergli dato dello Juventino. Anche uno tu, dei migliori titoli oggi nelle pagine sportive è la Juve è terrena. Capisci? Vabbè, nei giorni del Papa Giovane di Sorrentino abbiamo scoperto che la Juve è terrena. Vabbè. Però dobbiamo parlare di referendum, le ragioni del sì con il professor Fusaro. Concentriamoci sulla questione dei costi. Dobbiamo metterlo sotto. Esatto, che la questione dei costi è forse quella sulla quale quelli del sì pensano di andare più a nozze, o no, professor Fusaro? Ma francamente i costi sono un vantaggio della riforma, ci sono delle riduzioni che a regime avranno un significato abbastanza rilevante, nell'immediato meno, ma il vero risparmio è quello di istituzioni più efficienti, non è quello di euro in meno. Sì, è questo, però ci arriviamo. Però noi dobbiamo fare il nostro mestiere giornalisti. E allora, ci mancherebbe. Allora, io parto da due affermazioni del Presidente del Consiglio. Quella di Matteo Renzi, 31 marzo 2014, con il referendum, risparmi per 1 miliardo di euro. Dopodiché, corretta molto più recentemente, il 22 settembre 2016, questa volta all'Ansa, la riforma costituzionale porta 500 milioni di euro di risparmi. Pesi di Renzi, lei lo conosceva meglio di me, ma io lo devo ricordare, documento della Ragioneria Generale dello Stato, ottobre 2014, che fa i conti, dice qui ci sono due articoli che sono risparmi di costi della politica ai costi delle istituzioni, cioè quello del Senato e quello del CNEL, però i risparmi secondo noi sono solo 57,7 milioni l'anno, di cui 40 milioni per la riduzione dei senatori. 57, non 500 miliardi o 1 miliardo. Qui si può rispondere precisamente, sì. Infatti l'avevo anticipato. Una cosa sono i risparmi immediati. Allora, se ci sono 315 senatori le cui indennità non si devono più pagare, questo è un risparmio immediato. Se fra 10 anni, 5, ovviamente essendo anno dopo anno i senatori solo quelli, gli eventuali 95 più 5 a spese oltretutto delle regioni e dei comuni, anche i pensionati si ridurranno, ma naturalmente nell'immediato lo stock di pensionati e senatori aumenta, quello resta. Cioè. Oppure, seconda spiegazione, è chiaro che oggi c'è personale al Senato per reggere un'amministrazione che concerne 315 senatori. E non a caso il Senato costa esattamente la metà della Camera, 500 milioni e rotti rispetto il Senato, un miliardo. Regime, ma professor Fusaro lo sa meglio di me che mica verranno licenziati, rimarranno appunto in altra funzione e l'incarico dello Stato, quindi non si risparmia niente. No, un momento, tu risparmi, noi risparmiamo come cittadini ogni anno in quantità crescente, anche perché la riforma prevede una cosa molto importante ed è di immediata applicazione nel caso in cui sia promulgata, senza aspettare il 2018, ed è la fusione delle amministrazioni, dell'organizzazione e perfino il ruolo personale unico delle due Camere. Questo vorrà dire che quando c'è un vuoto alla Camera non si assume, ma si prende dal Senato fino a che naturalmente non si stabilisce un riequilibrio. Per questo il risparmio finale è molto vicino a quei 400-500 milioni dei quali si diceva, un miliardo direi di no. Nell'immediato, secondo me, si piazza probabilmente su un centinaio di milioni. No, finale, cioè, finale cosa vuol dire? Cioè, tra quanto produrremo, secondo lei, quei risparmi di 400-500 milioni? Come si fa a sapere esattamente quando si riequilibrerà il personale? Bellissimo, per esempio, professore, allora non bisogna dire un miliardo e mezzo miliardo, soprattutto se si è alla testa dei promotori, perché altrimenti, come ovvio, si offre su un bastone d'argento l'argomento a chi dice vabbè, e allora lasciamo perdere. Ha ragione lei, non bisognerebbe dirlo, non bisognerebbe dirlo. Non vedo perché non si debba dire anticipando dove si arriverà, ecco. Questo mi sembra del tutto legittimo, questo vale per tutte le riforme. Uno dice voglio arrivare là, dice ma il primo anno no, vabbè, ma è da l'idea di come si fanno le valutazioni di impatto nel nostro paese, che è uno dei problemi della bassa qualità della nostra legislazione, come lei sa, cioè, si fanno per spirito di parte, si esagera, si moltiplica, si gonfia, e questo rende poco credibili gli argomenti da una parte come dall'altra da chi li nega pregiudizialmente, e cattiva qualità del dibattito pubblico. Io non condivido un'impostazione così drastica, dico anche che per esempio abbiamo altre misure di tetto, come è noto, nella riforma, che sono quello che riguarda le indennità dei consiglieri regionali o i soldi che non vengono più dati ai gruppi. Questi per esempio ovviamente la ragioneria non li calcola perché sono sui bilanci dei consigli regionali. A fare queste stime io mi ci sono un pochino messo, indubbiamente non sono cifre spettacolari, ma che si aggiungono. D'altra parte, Oscar e Alessandro Milan, sapete quante borse di studio si fanno con questi risparmi pur limitati? Si risolve il problema delle borse di studio per diverse grosse università, quindi io non so. D'altra parte, voi lo chiedete a me e io vi dico che secondo il mio avviso il vero risparmio è di istituzioni più efficienti, di processo legislativo più rapido. Guardi, per esempio, certo oggi non sono i 25 milioni del CNEL, insomma. Sì. D'altra parte anche sul CNEL, vedi, lì si è discusso, sono 25 ogni anno, e siccome questo CNEL tutti dicono che non serve da almeno 30 anni, in 30 anni 25 milioni ci avvicini a miliardo. Ma come la questione delle province, che io conto le settimane decisive per l'annullamento dall'inizio della legislatura, bisogna cancellarle dalla Costituzione. Quindi. No, si cancellano, esatto. Ma anche le province, come fai a calcolarlo obiettivamente? Perché le province, la sorte delle province qual è? Che cancellate dalla Costituzione, le regioni di fatto potranno pagarsele e tenerle, non tenerle, accorparle, sostituirle, e ogni regione farà come crede, cosa che tra parentesi considero giusta, perché il Molise saggiamente potrebbe abolirle, la Lombardia o la Campania forse si riaggregheranno in enti di area vasta secondo quello che riterranno funzionale al buon funzionamento dei comuni e delle realtà territoriali. Vede come il dibattito è diverso. Oggi pagina 3 del giornale, altro che taglia la casta, con il sì aumenterà gli stipendi dei politici. Perché? Perché si equipareranno l'indennità dei consiglieri regionali a quelle dei sindaci, in alcuni casi come il sindaco di Milano è più alta rispetto al consigliere regionale. Secondo me tra l'altro non è vero, perché forse la paga di 6.000 euro, ma poi ci aggiungono in consiglio regionale. Sarei sorpreso, a me pare che ci siano anche questo è verissimo, per esempio il Consiglio regionale della Toscana, non mi dite perché sono viola, ma ha una prassi di indennità e di non trasferimenti ai gruppi che è veramente commendevole, ma è uno. Poi bisogna vedere gli altri per i quali invece l'indennità supera addirittura in quel caso quella del deputato. Professore Carlo, siccome stiamo andando col tempo, mi dia una buona ragione, mi convinca del perché, mettendo mano a un intervento di competenze Stato-Regioni, invece si lascia intatta l'autonomia speciale, che soprattutto nel caso della Sicilia, che da sola è un terzo dei costi di tutti i dipendenti regionali italiani, da sola, si lascia intatta. La ragione è molto semplice. Le autonomie speciali sono disciplinate dagli statuti. Questi statuti, voi sapete, ma i cittadini forse no, ma glielo ricordiamo, sono approvati con legge costituzionale. Di fatto dire si riformano le regioni a statuto speciale vuol dire fare 6 riforme, non una. Lo so. E allora, francamente, è un po' un benaltrismo. Ma bisognerebbe farle o no? Bisognerà occuparsene, certamente. Ecco. Ma attenzione, primo, ad ogni giorno la sua pena, se no facciamo il massimalismo. Uno ci si trova e dice, siccome il percorso è più complesso, l'ha detto lei, ma noi siamo perché quell'autonomia si riveda, non è possibile, insomma, un terzo del totale delle spese. Sul rivedere le autonomie sono speciali, sono d'accordo quasi tutti, ma guardate che non sarà un'impresa da poco. Non sarà una passeggiata, ci vorranno molti me ne anni rendo conto. E d'altra parte, però, siccome si riaccentra la competenza su molte materie rispetto a regioni che hanno governato molto bene e si lascia invece la dilapidazione nelle mani di chi ha fatto malissimo, tutto qua, ecco. Potere autoritario che da un giorno all'altro cancella un'autonomia speciale, no, come fosse la ridiscute, certo. Per esempio il Trentino Alto Adige, che ha implicazioni internazionali, cioè, certo. E questo crea, è un'impresa che, per la quale io credo ci vorrà 10 anni, 15. Come dice lei, ogni giorno la sua pena. Fermiamoci qui per il momento. Grazie Carlo Fusaro. Carlo Fusaro, sì. Ci fermiamo qui, Carmelo Lauricella in regia, Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi con noi. In no, redazione. Lui vede Donnarumma e Locatelli in regia. Io ve lo dico, caro ascoltatore. Ha un occhio rosso e uno nero. Donnarumma va via, tra l'altro, tra un anno. Quindi tranquilli. Si cassa. Tranquilli, amici. Anche Locatelli, va bene. Speriamo almeno quello no. A domani. Continuate sulla 24.